Macchiato, por favore, espresso macchiato, corneo. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, espresso macchiato, mi amore. Addicted to tobacco, me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just found a sleep to ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depresso. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore. Por favore, espresso macchiato corneo. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, espresso macchiato, mi amore, mi amore. Espresso macchiato.